Non è possibile ignorare un argomento come quello della musica cristiana. Dato che negli ultimi anni ha subito un forte cambiamento, il credente ogni volta che deve affrontare cose nuove deve evitare di cadere in qualche eccesso. Non deve far lega con gli amatori di novità, Proverbi 24.21. E neppure essere attratto da esse, come gli ateniesi, i quali amavano ascoltare quel che c'era di nuovo. Atti 17.21, perché sa che in fondo non ci è nulla di nuovo sotto il sole, Ecclesiaste 1.9. Neppure deve scartare a priori tutto quello che non rientra nella sua mentalità, ma fare oggetto dei suoi pensieri, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama e quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, Filippesi 4.8. La musica che alcuni credenti usano attualmente per cantare lodi a Dio è cambiata rispetto a quella tradizionale. E, sbagliato questo? Certamente no, perché innanzitutto non esiste una musica cristiana e, in contrapposizione, una musica pagana, ma piuttosto un canto cristiano e un canto pagano. E il riferimento non è tanto alla melodia, ma piuttosto alle parole. Sono dunque le parole che rendono cristiana una musica e quindi la legittimano, e non il ritmo con il quale le parole vengono cantate. Tant'è vero che alcuni inni hanno la melodia di qualche inno nazionale. Stabilito questo, dobbiamo quindi dire che è lecita ogni musica purché abbia parole cristiane? Anche a questo interrogativo risponderei di no. Infatti la scrittura ci esorta, per non dire che ci comanda, di cantare sotto l'impulso della grazia, Colossesi 3.16. Perciò, anche se le parole sono buone e accettabili, occorre stare attenti ad esprimerle per lo Spirito Santo. E qui sorge la terza e forse la più difficile domanda da rispondere. Quando un credente, usando le parole cristiane, canta una canzone sotto l'impulso della grazia, cioè esprime i suoi testi per lo Spirito Santo? Beh, direi che una risposta frettolosa non mancherebbe certamente di difetti, per cui preferisco seguire la seguente strada. Innanzitutto questo problema non è nuovo per la cristianità. E quindi trovo saggio, prima, ascoltare anche il parere di altri credenti fedeli e sensibili nelle cose di Dio. Naturalmente le loro parole non fanno autorità, ma la scrittura ci dice che la sapienza è con chi dà retta ai consigli. E ancora, chi ascolta i consigli è savio. Proverbi 12.15 e 13.10. Porto quindi la testimonianza di due uomini di Dio che io ritengo forse più capaci a discernere il bene dal male. Un uomo che ha espresso il suo parere in merito alla musica cristiana è Aurelio Agostino, vissuto nel IV secolo. Tra le sue tante opere, la più famosa è forse Le Confessioni. In quest'opera, Agostino spande la sua anima, sono appunto confessioni, e dopo aver spiegato la sua conversione, rileva come gli sia difficile vincere le molte tentazioni nelle quali si trova. Parla della tentazione della carne, di quella del gusto, di quella dell'odorato, di quella della vista, di quella della curiosità e di quella dell'udito. E, appunto a proposito di quest'ultima, che desidero riportare per esteso ciò che egli ha detto perché affronta il nostro problema, Pag. 347-348. I piaceri dell'udito mi hanno tenuto legato e schiavo molto tenacemente, ma tu me ne hai liberato. Ora, quando vengono cantati con delicatezza e bravura canti vivificanti dalle tue parole, riconosco che un po' mi lascio prendere, non però al punto da rimanere avvinto e da non potermene distogliere quando voglio. È vero comunque che essi esigono un non piccolo posto nel mio animo, e vogliono esservi ammessi insieme con i pensieri che li vivificano, ed io taccio fatica ad offrir loro quello che sarebbe loro dovuto. Talvolta in effetti mi sembra di usare verso di essi un riguardo eccessivo, ma d'altra parte sento che, se quelle sante parole vengono cantate così, i nostri animi sono spinti ad un fervore di pietà più devoto e più ardente che se non venissero cantate. Sento che tutti i nostri affetti interiori trovano nella voce che canta un loro modo di espressione che, chissà per quale misterioso rapporto fa loro da stimolo, ma il piacere della carne, al quale non bisogna permettere di indebolire lo spirito, spesso mi tradisce. La sensazione non accompagna la ragione accettando una posizione subalterna, bensì cerca di precederla e di guidarla. Eppure è proprio grazie alla ragione se essa è stata colta. Così in queste cose pecco. Senza accorgermene, me ne accorgo solo dopo. Qualche altra volta, invece, ma molto raramente, esagerando nel guardarmi da questo pericolo, pecco per eccessiva severità, al punto da voler quasi privare del tutto le mie orecchie, e quelle addirittura della chiesa tutta di ogni melodia che si usa per accompagnare il salterio davidico. Mi sembrerebbe più sicuro fare ciò che spesso ho e sentito dire del vescovo di Alessandria, Atanasio, il quale voleva che si leggessero i salmi, con una modulazione della voce talmente discreta da risultare più vicina ad una recitazione che ad un canto. Agostino continua le sue riflessioni dicendo: «Certo, quando ricordo le lacrime che versai all'ascolto dei canti di chiesa nei primi tempi del mio ritorno alla fede, e come anche ora mi commuovo non tanto per il canto in sé quanto per i concetti che vengono cantati, poiché con voce limpida e ben educata non posso che riconoscere la grande utilità di questa usanza. E così esito fra la coscienza della pericolosità del piacere e la constatazione della sua utilità, ma, pur senza voler ora esprimere un giudizio definitivo, direi che tendo piuttosto ad approvare l'uso di cantare in chiesa, in quanto le anime più deboli possono, con l'aiuto del piacere dell'udito, elevarsi nella preghiera. Ciò nonostante, quando succede che mi colpisca di più il canto che non le parole che si cantano, io mi confesso reo di un peccato da espiare. In quelle occasioni preferirei non sentir cantare. Ecco a che punto mi trovo. Piangete con me e per me, voi che vi proponete il bene e lo traducete in opere. Quelli infatti che non si danno da fare, non si sentono toccati da questi problemi. Tu, Signore Dio mio, esaudiscimi, guardami, abbi pietà di me e guariscimi. Mi sono esaminato dinanzi al tuo sguardo, ecco la mia debolezza. Ci troviamo di fronte ad un'anima veramente sensibile. Agostino si rende conto che la musica gli piace, ma non vuole peccare, e si confessa colpevole quando ama più la musica che le parole. Perché questa fa leva sui sentimenti, i quali, come egli si rende conto, spesso dominano la ragione anziché essergli sottomessi. Il pericolo di Agostino non è nuovo, perché per quanto passi il tempo, gli uomini sono sempre uguali. Tutti siamo presi dai sentimenti e dalle emozioni, ma pochi sono coloro che se ne rendono conto e sono guardinghi e sospettosi delle loro emotività. I sentimenti sono un dono di Dio, la musica li risveglia. Ma non tutto ciò che proviamo con le nostre sensazioni può essere ritenuto buono. Nella mia pubertà ascolto per ore la musica per il piacere che mi procurava, ma alla luce di oggi posso vedermi come la mia nipotina che, quando è sconsolata, chiede il ciuccio. Non occorre demonizzare la musica come non occorre demonizzare il ciuccio, ma quando si cerca il ciuccio in età adulta qualcosa non va. Così è della musica. Se questa diventa una consolazione illecita, occorre non ascoltarla. Un'altra persona che si è espressa in merito al canto è Giovanni Calvino, vissuto nel XVI secolo. Nella poderosa opera Istituzione della religione cristiana, parlando del canto nelle chiese, a pagina le 66, egli dice: «Indubbiamente il canto, accompagnato alla serietà che conviene avere davanti a Dio e ai suoi angeli, è un ornamento che conferisce maggior grazia e dignità alle lodi di Dio ed ottimo mezzo per incitare i cuori e infiammarli ad un maggior impegno nella preghiera. Bisogna però sempre badare a che le orecchie non siano attratte dall'armonia del canto più di quanto gli spiriti lo sono dal senso spirituale del testo. Se dunque si canta con una tal moderazione, si tratta di un canto indubbiamente molto santo ed utile. Al contrario, i canti e le melodie composte unicamente per il piacere dell'orecchio, come lo sono tutti i ballabili e i ritornelli della papisteria, e tutto quel che chiamano musica modulata, costruzioni musicali e canti a quattro parti, non si addicono affatto alla serietà della Chiesa e certamente dispiacciono molto a Dio. Dunque anche Calvino non è contro il canto, ma usa la stessa discrezione di Agostino. Il canto cristiano è buono purché non ci si lascia attrarre più dall'armonia che dalle parole. Sono d'accordo con lo spirito di Agostino e di Calvino, perché tengo costantemente presente che Satana secondo la descrizione di Ezechiele applicata simbolicamente al re di Tiro, è un cherubino, il quale, quando fu creato, aveva al suo servizio tamburi e flauti. Ezechiele 28.1119. Ciò vuol dire che la musica non è sempre il prodotto del divino, dato che il maligno ci ha messo lo zampino. Lutero ha espresso questa verità ancora meglio dicendo che la musica è una figlia di Dio, ma il diavolo l'ha sposata. Ecco perché cantano sia i cristiani che i pagani. Al tempo in cui la guerra era all'ordine del giorno, vi erano tribù e popoli che prima di andare in battaglia accendevano il loro spirito combattivo con una musica sfrenata. Oggi, gran parte della gioventù usa la musica per scatenarsi in balli frenetici e per alimentare le insaziabili passioni sessuali. Però, se la musica è usata male, non è detto che i cristiani non devono servirsene. Il vero credente canta perché ha un canto nel cuore, come Paolo e Sila che, cacciati in un'oscura prigione, pregando cantavano inni a Dio. Atti 16.25. Pregavano cantando, ecco cosa deve essere per il cristiano la musica, un mezzo per pregare. Voleva certamente dire questo Agostino quando affermò che chi canta prega due volte. Perciò, dal momento che non esiste una musica cristiana, abbiamo il dovere e il diritto di dire che quando in una canzone cristiana si mette l'enfasi più sulla musica che sulle parole, noi stiamo stimolando i sentimenti altrui più che la mente, e ciò è sbagliato. L'Evangelo è un messaggio, non una musica. Certo, una buona musica può predisporre un'anima all'ascolto, ma quando copre il messaggio, essa perde il suo scopo. 197. Novembre 2005. Ellero,